benvenuto a tutti a nome della Biblioteca Claudio Augusta e a questo incontro che fa parte del ciclo sulla ricerca in Alto Adige. È un ciclo di incontri che abbiamo iniziato a organizzare da circa un anno e è legato al premio Claudio Augusta. Il premio Claudio Augusta è un premio che la Biblioteca bandisce ogni anno, anche quest'anno è appena uscito, appunto, fino a ottobre, il 23 ottobre si chiuderà, e è un premio che raccoglie le tesi di laurea di ricerca di interesse provinciale in lingua italiana. Quindi se conoscete qualche studente, insomma, che si è appena laureato o si deve laureare bene con una tesi simile, se per cortesia potete dirtelo, perché potrebbe essere interessante sia per lui che per la biblioteca, che poi per gli utenti della biblioteca che avranno a disposizione queste tesi di laurea per poterle consultare. E questo ciclo di incontri, appunto, abbiamo detto, cerca di dare la possibilità a questi studenti che ricevono il premio Claudio Augusta di presentare il proprio lavoro e danno la possibilità di approfondirlo, di conoscerlo, insomma. E ogni studente ha anche un ospite, padrino o madrina, che lo accompagna, che si tratta di un professionista che opera nel settore di cui la tesi si occupa. Questa sera quindi diamo il benvenuto a Francesco Natalini, che appunto ha scritto questa tesi di laurea sulle relazioni clima-crescimento su Abies Alba, Epicea Abies in Alta Valle Nostra. E vi ricordo che a 15 giugno abbiamo un'altra tesi di laurea, lo studente è Cristian, ex studente, cioè dottorato, dottore ormai, Cristian Giacomotti, con una tesi sulla vita di San Donato. E benvenuto anche al dottor Fabio Maestrelli, che grazie, è dell'ufficio pianificazione forestale della ripartizione foreste della provincia, e direi che vi lascio la parola e buon ascolto. Sì. Buonasera anche da parte mia, appunto lavoro presso la provincia di Bolzano, servizio foreste, la forestale conosciuta, insomma. E due solo parole, perché è lui che deve presentare il suo lavoro. Noi come provincia non possiamo fare ricerca, non siamo un'università, però abbiamo delle esigenze di ricerca che tante volte ci premono. Quindi usiamo un pochettino un mezzo un po' strano, insomma. Da noi diamo possibilità di lavorare l'estate ai studenti che studiano le scienze forestali sia a Vienna, alla Bocco che a Padova, lavorano presso il nostro ufficio, fanno i rilievi in bosco pratici che noi servono, un'occasione di guadagnarsi qualche cosina e anche di fare un po' di pratica. Questo è un piccolo vanto che non scriviamo sulle nostre bandiere, ma io sono stato uno che 30 anni fa ha fatto anche questo lavoro. È una possibilità che siamo contenti di offrire e pochi altri servizi forestali, anzi nessuno, né a sud né a nord delle Alpi, lo offrono. Fa piacere lavorare con persone giovani perché arrivano anche idee. Quindi poi questi studenti studiano, hanno bisogno di una tesi, e allora coniughiamo la nostra necessità di indagine con le tesi di laurea che devono fare. Così, insomma, prendiamo capo cavola in un colpo solo, praticamente. Quindi ci si accorda con i professori dell'università su una tematica interessante che a noi ci piaceva indagare, che piace anche allo studente. Con questa maniera sono da anni che abbiamo, tramite tesi, riusciamo a coprire un fabbisogno di ricerca in tempi di risparmio, anche a costo abbastanza zero, insomma. In questo caso, perché sull'abete bianco? L'abete bianco, che per dirla brevissimamente è l'albero di Natale, quello che non perde gli aghi, per chi non è botanico, così si sa di cosa si parla, è una specie legnosa che ha bisogno di un clima abbastanza umido, cioè cresce in zone normalmente più di 1000 mm di precipitazioni all'anno, è diffusissimo ad esempio in Cadore o a nord delle Alpi. La Valle Nostra è un settore particolarmente asciutto, perché è conosciuta come una valle est-ovest, trasversale, che non gode delle precipitazioni che vengono da sud, perché c'ha due catene montuose, le Maddalene e poi la catena che divide la Val d'Ultima dalla Valle Nostra, che blocca le precipitazioni. Abbiamo dei minimi di 600 mm di precipitazioni a Valle Nostra, è conosciuta come un'isola di aridità. Difatti le coste aride esposte a sud hanno delle precipitazioni molto particolari, però stranamente sul versante a nord c'è la presenza di un abete bianco, che è un ecotipo, cioè un tipo, per intenderci, chiamiamolo con tutto termine una razza, ma è un brutto termine, un ecotipo adattato a queste esigenze diverse. Praticamente ci sono state fatte altre tesi di laurea, e a suo tempo è stata fatta anche un'indagine genetica che ha dimostrato che questo abete bianco è la combinazione di due provenienze di abete bianchi, cioè. E poi chiudo. Quando ci sono state le glaciazioni, sono sparite le piante su tutto il continente, sulle Alpi, e si sono rifugiate, sono sopravvissuti l'abete bianco sugli Appennini e in un'area della cosiddetta Slavonia, fra Ungheria e Serbia, diciamo. Di lì hanno ricolonizzato. Neanche a farlo apposta, questi due tipi diversi, stando così separati, hanno incominciato a differenziarsi, non in specie, ma in ecotipi. E si sono incrociati lì, e lì c'è una popolazione autoctona sul lato nord della Val Venosta, concentrata specialmente nel comune di Laudes, che è quello all'inizio per andare verso Tubre, e poi questa presenza del abete bianco cala, ma va fino a oltre Silandro. Questa particolare è veramente una rarità, tanto che ci hanno chiesto dei colleghi della Germania dei forestali per la Selva Nera, dove probabilmente sparirà l'abete bianco per l'aumento del clima, l'aumento delle temperature e il calo delle precipitazioni, rischia di sparire. Ci hanno chiesto di poter raccogliere i semi di questo particolare ecotipo. Quindi ci sembrava un argomento molto interessante, e Francesco magari anche vedere come rispondevano questi come mai si adattava un clima così secco, perché qua 600 mm è veramente poco, non dico che siamo super desertico, quasi ma la metà. Quasi la metà delle vallate, come la Val d'Ultimo sono 1000 mm, la Val Aurina sono 1100 mm in media. Quindi come si è adattato? Come si è adattato? La natura è eccezionale ad adattarsi, ed è proprio un ecotipo particolare. Probabilmente, se avremo altre occasioni, andremo avanti anche a studiarlo, perché al giorno d'oggi la genetica offre anche più mezzi. È qualcosa che è un po' conosciuto, non si fa tanta pubblicità perché abbiamo dei patriarchi, vi dirà, dei veri patriarchi. Io ho finito, di più non devo dire, lascio a te a Francesco. Come di sicuro avete capito, stasera andremo a parlare degli alberi e come il clima va a influenzare la loro crescita. In particolare ci siamo soffermati su questo abete bianco e diciamo così, tra virgolette, sul suo cugino, sì, che è l'abete rosso. Questo studio è nato da questa domanda, appunto: come va ad influire il clima e i suoi cambiamenti sugli accrescimenti degli alberi, e in particolare su queste due specie. La scelta abbiamo anche più o meno visto perché, dopo approfondiremo. E proprio perché il clima, diciamo così, è uno dei fattori che ha suscitato molto interesse, specialmente nell'ultimo periodo, anche per la sua maggiore variabilità rispetto agli anni scorsi e in passato, e anche per una buona disponibilità di dati e strumentazioni sempre più precise e tecnologiche, che ci permettono appunto una buona raccolta di dati. Delle piccole informazioni, studi, non so se voi conoscete l'IPCC, che è questo ente, diciamo, che va ad analizzare le dinamiche del clima, e nei suoi studi ha visto che nell'ultimo secolo, nel XX secolo, il clima è aumentato generalmente di in media di 0,74 gradi centigradi, e ci sono alcune previsioni non proprio ottimistiche che nel prossimo secolo il clima, la temperatura anzi, aumenterà ulteriormente di circa 1,1 grado nell'ottica più ottimistica, fino anche a 6,4 gradi centigradi, quindi un aumento consistente. Altri studi che supportano questo andamento del clima, che sono andati ad analizzare, sono stati eseguiti dalla NASA. La NASA ha fatto uno studio nel 2010 che andava a vedere proprio le temperature dell'ultimo secolo, degli ultimi 150 anni, e cosa hanno visto? Che proprio quell'anno, 2010, era il più caldo degli ultimi 150 anni. Poi hanno ripetuto lo studio l'anno dopo e hanno visto che era il 2011 l'anno più caldo, anche di più del 2010, e così via, 2012, 2013, 14 e 15, fino ai giorni nostri. Quindi noi io con il mio professore che mi ha seguito, il mio relatore, abbiamo deciso di vedere come questi cambiamenti vanno ad influenzare la crescita degli alberi e dei nostri boschi. Per fare ciò abbiamo utilizzato una tecnica particolare che è la dendrocronologia, che si basa principalmente sullo studio degli anelli legnosi. Molti di noi hanno visto un albero tagliato, sono andati a guardare il fusto e mostra proprio dei cerchi concentrici che sono gli anelli del legno. Noi, andando a contare questi anelli, possiamo risalire all'età della pianta. Il primo che ha notato tutto ciò fu Leonardo da Vinci. Dopodiché questa tecnica nel tempo fu approfondita anche dal punto di vista scientifico con le nuove tecniche, e all'inizio del Novecento il primo studio di cui si ha registrazione, di cui si ha nota, avviene in Arizona, Tucson, e cerca di vedere come utilizzare queste informazioni del legno con gli andamenti climatici, quindi con le attività solari e del clima. Poi questa tipologia di studio è stata approfondita sempre in America, diciamo, con un po' i pionieri della dendrocronologia, e per lo più per studiare l'ecologia del fuoco. Ma perché ci sono questi anelli? Questi anelli sono dati dall'attività appunto di accrescimento degli alberi. Diciamo che principalmente crescono gli alberi legnosi, crescono in altezza e in larghezza, semplificando proprio al massimo. E la presenza degli anelli è data dall'attività del cambio, che vediamo è questo anello più chiaro tra il legno e la corteccia, e diciamo che è la parte viva della pianta che ogni anno si moltiplica e si accresce. Il cambio cresce in due direzioni, verso l'interno, creando il cosiddetto legno che noi conosciamo, che prende il nome di xilema e ha funzione sia di sostegno che di trasporto idrico dalle radici, trasporta l'acqua che vengono assorbite dalle radici fino alle foglie. E all'esterno di questo cambio si crea un'altra guaina, fascettina di cellule, che prende nome di floema, la quale però non rimane, viene persa, e ha la funzione principale di portare tutte le sostanze raffinate dalle foglie, ovvero la linfa, dalle foglie alle radici per nutrirle. Quindi il legno si accresce in questo modo. Ma perché ci sono gli anelli? Gli anelli ci sono perché c'è un'alternanza di stagioni. Abbiamo un periodo favorevole, che naturalmente è quello estivo, quello in basso, che va dal mese di maggio fino a ottobre inoltrato, ed è il periodo in cui la pianta vegeta, si accresce e aumenta il suo diametro, le foglie, tutto quanto. Mentre nel periodo invernale la pianta va in uno stato di dormienza, di stasi, e praticamente blocca la sua crescita. Questo cosa causa? Qui abbiamo una foto che è una sorta di zoom del legno a livello microscopico. Abbiamo delle cellule che si sviluppano durante il periodo primaverile-estivo, che sono quelle più grandi, vediamo che prendono il nome di legno primaticcio, quindi vediamo proprio in modo chiaro le cellule grandi e sono tendenzialmente meno dense. Man mano che ci si avvicina alla fine del periodo vegetativo, verso all'inizio dell'autunno, le cellule diventano sempre più piccole e più fitte e creano questo legno più scuro, quindi più denso. E questo crea proprio questo disegno degli anelli nel legno. Andando a vedere, questa è solamente in sezione orizzontale di un albero. Se noi volessimo andare a vedere la sezione verticale, si avrebbe questo disegno, paragonando il fusto di un albero ad un cono. Ogni anno, proprio per l'attività del cambio, questo cono si ricopre con una sorta di guaina di cellule. Un cappuccio. E se naturalmente noi andiamo a vedere la sezione orizzontale, avremo dei cerchi e non più dei coni. L'accrescimento dell'albero dipende da fattori interni ed esterni. Fattori interni, proprio la specie, la stessa specie dell'albero. Naturalmente un abete non cresce nello stesso modo di un faggio o di un altro tipo di albero. E da fattori esterni, quali sono? Naturalmente la posizione in cui l'albero, perché l'albero non si può spostare. Dal clima, dalla sua posizione sociale. Cosa intendiamo con posizione sociale? se è avvantaggiato rispetto ad altri alberi, magari messo in modo che assorba più luce rispetto ad altri alberi, e anche da altri fattori che possono essere attacco di funghi, insetti, frane, che possono andare in qualche modo a disturbare la crescita. Quindi questi sono i fattori principali che determinano la crescita dell'albero e la formazione degli anelli. La dendrocronologia, che va appunto a studiare gli anelli, si basa su alcuni principi fondamentali, che sono la presenza di questi anelli, perché se no non si potrebbe fare questo studio, e non tutti gli alberi presentano gli anelli, o meglio, non tutti gli alberi in tutte le zone del mondo presentano gli anelli. Questo perché? Perché solamente in alcune zone, ovvero nelle foreste temperate boreali, si ha l'alternanza di stagioni, e che determina, come abbiamo visto prima, la presenza di cellule più ampie, più piccole, e quindi la presenza di anelli. Se noi invece andassimo ad osservare l'accrescimento di piante in una foresta tropicale, non riusciremo a vedere la differenza, perché non c'è differenza di stagione, diciamo così. Un altro principio su cui si basa la dendrocronologia è che individui, alberi della stessa specie che sono presenti nella stessa area geografica sono soggetti agli stessi fattori esterni, ovvero rispondono, hanno la stessa reazione agli input esterni, ovvero precipitazioni, approvvigionamento idrico, temperature o magari anche altri tipi di disturbi, frane, eccetera, eccetera. Quindi stessa zona, stesse condizioni di crescita. Inoltre è possibile confrontare queste, diciamo, sequenze di crescita, queste sequenze di anelli tra i diversi alberi, ed estendere lo studio a ritroso nel tempo. Faccio un esempio, così magari sono più chiaro. Noi abbiamo un albero che è nato nel 1800 e poi è morto nel 1950. Io faccio i miei rilievi e ho l'età di questo albero. Poi ne trovo un altro che magari è nato nel 1920 ed è tuttora vivo.